got a slick chick. She a neat chick, but she's what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. A high heels on for the baby blues. What a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man. Yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stopped. We're on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my. Clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta stitch it. She's a neat trick, but she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll stitch it. Yeah, yeah, yeah, don't yeah, you yeah know she's a slick. Yeah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama. Yeah, yeah, yeah. Click, click, click, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I gotta yeah, yeah click a little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, yeah you know she's slick. Yeah. Eccoci, eccoci, bentrovati, bentrovate a Slick Chick, puntata di mercoledì, no, martedì, ormai per me niente, mercoledì non cambierò mai, nel mio cervello sempre mercoledì sarò. No, non è vero, siamo in diretta il martedì 23 ottobre su Radio Wombat, ovviamente, come di consueto vi ricordo, anzi, già che mi è subvenuto così subito all'inizio di trasmissione, vi ricordo i nostri social web. Wombat, il sito prima di tutto, wombat.noblogs.org e la casella di posta, posta wombat@insiberia.net. Tra l'altro, novità, novità, ci potete seguire anche sull'istanza di Mastodon, Mastodon è più una cosa, un prodotto dentale, non lo so, mi fa molto... No, Mastodon, e dopo vi darò le specifiche perché adesso non me le ricordo, quindi datemi il tempo di una canzone almeno, me le vado a riguardare e poi vi... dirò tutte le cosette corrette. Ma Radio Wombat si ascolta anche se siete fortunelli o fortunelle sì, sulle radio le onde mediocri, oggi sono un po' così e perdonatemi, sulle onde mediocri in AM alla frequenza 1359 se siete fortunati, appunto, perché siete raggiunti dal nostro Wombat segnale, altrimenti andate a casa di qualcuno che è così fortunato ad ascoltarci. Ecco, se no, insomma, ci trovate in streaming come probabilmente state facendo. Allora, puntata di oggi di Slick Chick, non perdiamoci, anche perché sono appunto sarà il freddo, il vento che sta arrivando, l'autunno che mette malinconia. Ecco, se mi fermo a divagare poi non mi riagguanto più. E quindi andiamo dritti per la nostra strada e sulla puntata di oggi, che è dedicata agli specchi. Specchi, specchio, specchio delle mie brame, potremmo dire. No, non vi ho messo le clip da Biancaneve, mi sembrava un po' troppo banale, ma specchi nelle vari suoi riflessi, ecco, sì, simbolici sicuramente, a volte anche letterali, ma devo dire poco spesso, quasi mai. La musica in realtà molto spesso e forse sempre ha utilizzato lo specchio nella sua valenza più simbolica. E allora, sì, di simboli dobbiamo parlare. Io sono andata proprio a prendere il libro dei simboli, Riflessioni sulle immagini archetipiche, un libro edito dalla Tasch a cura di Amy Ronberg, piuttosto interessante, tra l'altro ve lo consiglio, molto approfondito, e purtroppo non vi posso in radio far vedere tutte le belle immagini e simboli che sono contenuti, ma vi posso almeno raccontare un po' di parole che descrivono alcuni di questi simboli, e tra cui ovviamente quello di oggi, che è lo specchio. Lo specchio è un contenitore riflettente la cui fonte di potere è costituita dalla luce. Gli specchi sono sempre esistiti. Prima delle loro versioni in metallo erano formati da riflessi sulle acque raccolte nei profondi recessi della terra. I popoli più antichi credevano che in questi riflessi si potesse percepire qualcosa di spirituale. Perfino oggi persiste la fantasia che lo specchio possa rubare l'anima delle persone. Il legame dello specchio con la natura essenziale di una cosa è evidente anche nell'antico geroglifico egizio che simboleggia la vita, l'ankh, impiegato, ma chissà se si dice anche, vabbè, diciamo di sì, impiegato anche per indicare lo specchio. Quest'ultimo era anche emblema del disco solare come fonte di luce che conteneva l'essenza della vita. Gli specchi venivano collocati nelle camere funerarie ed erano oggetti di culto impiegati nell'adorazione di Hathor, dea dell'abbondanza, della gioia, della musica, della danza, dei cosmetici, e abbiamo visto nella scorsa puntata quanto questi siano importanti, e dell'abbellimento. Gli specchi conducevano il defunto all'armonia con il divino. Questa è una prima suggestione che ci arriva da questo libro, appunto, di Amy Ronenberg, però adesso ci facciamo suggestionare anche dalla musica e partiamo dai Kraftwerk, una delle più importanti canzoni sugli specchi, è stata scritta sicuramente da loro, The Hall of Mirrors, dall'album Trans Europe Express del 1977, anche le grandi stelle trovano se stesse guardandosi allo specchio. Stepped into the Hall of Mirrors, where he discovered a reflection of himself. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Sometimes he saw a surreal face, and sometimes a stranger at his place. Even the greatest stars find their face in the looking glass. Even the greatest stars find their face in the looking glass. Suddenly, the picture was distorted. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. Eh sì, mi ero distratta guardando appunto Mastodon, cercando di capire come spiegarvi come si fa a entrare in contatto con il bot di Radio Wombat su Mastodon, ma in realtà è tutto molto semplice, basta andare su mastodon.bida.im e cercare appunto Radio Wombat, perché il link completo è mastodon.bida.im/@wombat. Anche questo non è che ci va proprio 20 lauree, ma insomma magari è un po' meno intuitivo. In ogni caso, insomma, sempre appunto su Mastodon potete trovare tutti gli RSS, quindi tutte le notizie che vengono pubblicate sul sito di Radio Wombat. Quindi se siete pigri o volete trovarvi tutto comodamente spiattellato su un social coso perché altrimenti non sapete vivere, ecco, in qualche maniera lo potete fare, ecco. Bene, basta essere socievoli, i sociali soprattutto, e arriviamo al prossimo pezzo che è un pezzaccio. Forse il pezzo che mi ha dato l'idea per la puntata di oggi, ovvero I'll Be Your Mirror dei Velvet Underground, un brano secondo me bellissimo, con un testo meraviglioso, e ovviamente l'album è The Velvet Underground e Nico del 1967. Tra l'altro Nico, per cantare questa, per registrare questa canzone, ci ha messo veramente un sacco di tempo, perché i Velvet Underground, appunto alle loro prime esperienze con Nico, esperienze che poi, ahimè, non sono durate tantissimo, Nico in realtà la strillava, perché se avete presente un po' il modo di cantare di Nico, ecco, aveva un approccio un po' aggressivo e la strillava un tantino. In realtà invece i Velvet Underground volevano, esigevano un modo di cantarla molto più dolce, e quindi gliel'hanno fatta rifare praticamente 20 milioni di volte, finché alla milionesima take Nico è scoppiato a piangere, perché era, evidentemente non ne poteva più. Allora gliel'hanno fatta rifare un'ultima volta, e questa volta è venuta bene, perché evidentemente bisogna devastarla una persona psicologicamente perché sia delicata. Ecco, beh, insomma, com'è come non è, direi che gli è venuta benissimo. Sarò al tuo specchio, rifletterò cosa sei, nel caso tu non lo sapessi sarò il vento, sarò la pioggia e il bel tempo, la luce alla porta che fa capire che sei in casa. Quando pensi che la notte ti abbia visitato la mente, che dentro sei contorto e sgarbato, permettimi di mostrarti che sei cieco, abbassa le mani per favore perché io ti veda. Mi sembra difficile credere che tu non veda la bellezza che sei, ma se non ci riesci, fammi essere i tuoi occhi, una mano per la tua oscurità, così non avrai paura. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror. I'll be your mirror. Direi che se qualcuno mi dedica una canzone così, io sono realizzata, ho finito, bene, perfetto, siamo a posto. Allora, la prossima, perché non ci dobbiamo soffermare troppo, dobbiamo tirare avanti senza delicatezza. Allora, Yiwu, altro pezzo importante e soprattutto, non solo un pezzo, un album intero direi dedicato agli specchi in qualche maniera. L'album è Tommy del 1969, Tommy è la prima opera rock, almeno così viene definita, ed effettivamente originariamente è stata pensata esattamente così. Da questo concept album nascerà poi nel 1975 il film di Ken Russell, che è noto a tutti. La storia è quella di un ragazzo nato alla fine della Prima Guerra Mondiale. Poi nel film di Ken Russell ci sono tutta una serie di divergenze, ma ora non le andiamo assolutamente a indagare, e andiamo invece sull'idea originale, che era quella del disco. Appunto, il ragazzo nato alla fine della Prima Guerra Mondiale, e Tommy assiste all'omicidio del padre, un aviatore britannico creduto morto e tornato tardivamente dal fronte, assassino da parte dell'amante della madre. Tommy appunto assiste alla scena dietro a uno specchio e i genitori gli dicono di non dire, vedere e sentire. See me, feel me, touch me, heal me sarà un po' il leitmotiv di tutto il disco. Per il trauma Tommy diventa così muto, cieco e sordo. A peggiorare la situazione poi gli arriva il devasto e subentrano una serie di violenze sessuali da parte dello zio, bullismo, personaggi che approfittano di lui, insomma una tragedia, e siccome lui non può né urlare né lamentarsi né gridare aiuto, insomma gliene succedono di ogni. Ogni cura e ogni tentativo di riportarlo alla normalità sono vani, fino a quando Tommy si scopre mago del flipper, che come gli è venuta sta cosa agli non lo so, vabbè, insomma si scopre un mago del flipper e come tale ottiene notorietà e ricchezza. Però in realtà è oltrepassando proprio lo specchio che Tommy torna alla vita e inizia un percorso che lo porta a divenire una sorta di messia in grado di liberare e curare gli altri, facendogli seguire il suo stesso percorso. Un medico ritiene che l'unico modo per comunicare con Tommy sia attraverso uno specchio. La madre non vuole credergli e distrugge lo specchio di casa. Paradossalmente questo evento rende finalmente Tommy libero e gli fa riacquistare tutti i suoi sensi, facendolo tornare un bambino normale. La distruzione del santuario, tra virgolette, riporta Tommy alla propria dimensione umana. E quindi proprio per questo fondamentale atto di spaccare, di rompere lo specchio, ci ascoltiamo esattamente Smash the Mirror. Leggo sempre dal dizionario dei simboli, scusate, non il dizionario, il libro dei simboli a cura di Amy Ronberg. Il termine inglese per specchio, mirror, deriva dal latino mirari, meravigliarsi, guardare con stupore. La natura sorprendente dello specchio è legata al modo in cui essa cattura la nostra immaginazione nelle sue apparenti profondità. La sensazione che al di là dell'immagine specchiata della realtà immediata si possa intravedere qualcosa di completamente diverso. Nel celebre romanzo di Lewis Carroll, il mondo dei sogni si può attingere attraverso lo specchio, personificando l'inconscio e la sua ammirabile capacità di riflettere ciò che è ignoto e potenziale. L'alchimia attribuì alla figura del sulfur, lo zolfo, il possesso di uno specchio in cui si può vedere tutto il mondo. Chi scruta in questo specchio può scorgere in esso e conoscere le parti della sapienza del mondo intero. L'alchimia ritorna ultimamente, giuro che non lo sto facendo apposta. Allo stesso tempo, gli aspetti più distruttivi dell'inconscio, come i travolgenti appetiti e le tendenze lunatiche, tra virgolette, venivano proiettati sulla luna mutevole e ciclicamente scura, il grande specchio benefico della natura. Tuttavia, come speculum che dà luce e in cui è possibile specchiarsi, la luna era anche un mezzo per ottenere l'autoconoscenza e la sua faccia visibile era influenzata dalla ricettività o resistenza dell'adepto alle intuizioni che essa offriva. E il prossimo brano che ci parla di specchi è The Plateau of Mirror di Brian Eno insieme alla Harold Budd, tratto dal disco del 1980 Ambient 2 The Plateau of Mirror, il secondo capitolo della serie Ambient, che iniziò con la pubblicazione di Ambient 1 Music for Airports. La maggior parte delle composizioni di Plateau of Mirror in realtà sono state composte e suonate con il pianoforte da Harold Budd e successivamente riarrangiate in studio da Eno. Thank you. my little Johnny Jewel. Oh, he's so cool. He had no decision. He's just trying to tell a vision. Some thought this was sad, and others thought it was mad. They're just scratching the surface. JJ to the floor kiss. Was he on display? No, no, not today. And all that guy ever said, he said, I want my little wings. He'd be half asleep at night. Over his head, sensation of flight. He'd wake up dreaming. And the Banshees, l'avrete riconosciuta e riconosciuti, Little Johnny Jewel dall'album Through the Looking Glass del 1987, e già il titolo del disco dovrebbe dirci qualcosa, appunto. Si tratta di un album di cover, tra cui c'è pure fra l'altro la Hall of Mirror dei Kraftwerk che abbiamo sentito in apertura, ma invece questa qui era Little Johnny Jewel cover dei Television, e lo spunto appunto in realtà era un po' sia dalla cover dei Kraftwerk ma anche dal titolo stesso, appunto, Through the Looking Glass. E andando avanti, arriviamo a Mirror Mirror, I See a Damsel, The Violent Femme, in un album del 1994, New Times. Una strana musica in stile Yiddish, lo sentirete, una delle bizzarrie dei Violent Femme. Sul significato ci sarebbero da lanciare mille ipotesi, come un po' su tutte le canzoni dei Violent Femme del resto. A me sembra una sorta di chi è senza peccato caso scagli la prima pietra, guardati allo specchio e prova a giudicare gli altri se ci riesci, una roba del genere. D'altra parte avevamo già scoperto che Gordon Gano è un fervente cristiano, lo ricorderete, ne abbiamo già, ce ne siamo già lamentati, abbiamo già fatto dei peana in questa trasmissione lagnandosi di questa delusione. Ecco, appunto, Mirror Mirror dei Violent Femme. I see a damsel in danger and distress. I see that she is pretty. I see a young girl dressed in a dirty dress. I see that she is pretty. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest one of all? I see a fat girl with her hair a mess. I see that she is pretty. I see a proud pregnant, I would guess. I see that she is pretty. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest one of all? Mirror, mirror, do not fail, who deserves to go to jail? I see schoolgirls dressed in a Sunday best. Vediamo quando guardiamo in uno specchio, ci dice sempre il libro dei simboli. Riflettere significa piegare di nuovo, riflettere, riverberare, evocando così un legame preciso. Il rispecchiamento ricettivo del bambino contribuisce all'espressione della sua identità. Per le sue proprietà magiche, lo specchio è lo strumento del trickster e dell'illusionista, che spesso ci fa apparire più o meno di quello che siamo. Ma in quanto emblema della nostra capacità di riflessione, è anche uno strumento strumento di salvezza. Nel mito di Perseo è solo guardando l'immagine riflessa di ciò che è troppo pericoloso da assorbire direttamente che l'eroe riesce a uccidere l'anguicrinita medusa, cioè, e dopo Peana ho detto anche anguicrinita e veramente oggi ho troppi punti cultura, mi sento, infatti è entrata una bruschetta e si vede che per questo è entrata un attimo una bruschetta in regia e quindi io mi sono sentita subito, come dire, cioè c'è un flusso di cultura che mi è arrivata addosso. Ecco, e quindi per tutto questo, per lanciare il brano successivo che è Mirror of Steel, che è un brano di Ginger Baker, batterista dei Cream, di molti altri, insieme a Jonas Hellborg basso e Jens Johansson al piano. L'album è del 1992, Unseen Rain. Thank you. sanguicrinita, cioè penso che non arriverò mai più a toccare queste vette di cultura. E tra l'altro mi era venuto in mente che di salutare, visto che è un po' che non lo facciamo, i nostri due meravigliosi fan che ci ascoltano dalla California e che ci hanno fatto pervenire nelle varie regie un meraviglioso cartello stradale del wombat australiano, e quindi ha un pericolo attraversamento wombat, e quindi li salutiamo. E beh, venite a trovarci, dai, così venite in regia a vedere con i vostri occhi la sistemazione del cartello. Bene, bene, ed a parte queste cose che non si fanno nelle radioserie, non si salutano gli amici, vabbè, ma noi non siamo una radioserie, siamo una radio così buffa e simpatica e socievole. Ecco, i Bauhaus sono il prossimo pezzo che di socievole hanno ben poco, Mirror Remains, l'album è Go Away White del 2008 e non lo so, c'è un certo non so che di molto decadente in questo pezzo, d'altra parte è anche l'ultimo disco che hanno pubblicato i Bauhaus appunto nel 2008, mi sentirei di sottolineare questa data, cioè perché già si erano sciolti ovviamente, poi si sono riformati nonostante le carriere soliste di un po' tutti, si sono sentiti che dovevano proprio riformarsi e poi dopo il 2008 basta. E i resti di uno specchio rotto, probabilmente rotto, sono un'immagine abbastanza potente ed eloquente, direi. But I'm marvelous already. I'm exhausted. We put the clocks forward, we put the clocks back. The mirror is never fooled. It remains slow-moving, liquid, cool. As we speed headlong into the desert. Stone of Indians, anarchic and faded stars. The temperature is cold as clay. Ash on birthday cake, a wine blushing vine. Stupefied up at size in decay. Bad. in decay. Stupefied, our bad sights in decay. Peter Murphy sarà in giro in Italia, a Roma e a Milano precisamente, questo novembre, a presentare in realtà le vecchie cose dei Bauhaus. Chissà, magari io un salto a vedermelo ci vado, non l'ho mai visto, magari, chissà. Allora, prossimo pezzo è un pezzo importante, è un gruppo importante, non che gli altri invece poverini, però ecco, gli English Beat con Mirror in the Bathroom. L'album è I Just Can't Stop It del 1980. Specchio del bagno parla apertamente, la porta è chiusa, siamo solo io e te. Il cantante e chitarrista Dave Wakeling racconta: all'epoca lavoravo nelle costruzioni, era inverno, avevo dimenticato di appendere i miei jeans per asciugare durante la notte. Così, quando sono entrato in bagno per fare la doccia, ho notato che i miei jeans erano ancora sul pavimento, fradici, coperti di sabbia. Cioè, un pancabestia questo Dave Wakeling, vabbè. Quindi li ho appesi pensando, probabilmente è meglio stiano qui caldi e umidi. Sono andato a radermi e nevicava e davvero, davvero non volevo andare al lavoro. Così ho iniziato a parlare allo specchio mentre mi stavo rasando ed era strano perché guardavo più in profondità nello specchio e potevo vedere una piccola didascalia sulla porta dietro e mi sono detto: guarda David, ci siamo solo io e te. La porta è chiusa, non dobbiamo andare a lavorare. E invece, certo che ci siamo andati. Ho preso la moto e ho iniziato a riflettere mentre andavo in cantiere. Ed è partita così. Stavo pensando a come l'autocoinvolgimento si trasforma in narcisismo e che in che modo il narcisismo si trasforma in isolamento. E poi in che modo l'isolamento si trasforma nuovamente in coinvolgimento personale e come possa diventare tutto questo un circolo vizioso. Così ho iniziato a pensare a diverse situazioni in cui le persone apparentemente sembrano fare qualcosa, ma in realtà stanno solo controllando la propria immagine. Ti accorgi, ad esempio, il sabato pomeriggio con le persone davanti alla alle vetrine, per la metà del tempo guardano soltanto il loro riflesso. We'll be right back. Come quasi tutti i gruppi che stiamo ascoltando, ma forse la maggior parte anche che non stiamo ascoltando, quando devono parlare, raccontare allo specchio, lo fanno in maniera molto intima, e è così che fanno anche Marnero. Quindi vediamo anche loro come, cosa vedono allo specchio. In Specchio Nero, per la precisione, l'album è La Malora del 2015, e come in molti brani di Marnero si parla di scelte e del coraggio di portarle avanti negli anni con la fatica, la frustrazione, la disillusione, ma anche una certa dose di coraggio. Come il mare non smette mai di muoversi sotto la lastra di ghiaccio, la verità ha i bordi frastagliati di un iceberg che si scioglie in un irreversibile passaggio di stato. è così, finisce un po', vero? È un po' botta. Allora, questi erano i Mar Nero ed era anche il penultimo pezzo di questa scaletta. Siamo in chiusura e vi lascio in buonissime mani, perché vi lascio con il Nero Orgasmo, perché anche loro hanno parlato di specchi, ovviamente. Nello specchio, beh, chi meglio del Nero Orgasmo, un gruppo estremamente riflessivo, direi, e quindi chi meglio di loro poteva riflettere sullo specchio. E vi lascio appunto nelle loro mani e vi ricordo i vari appuntamenti di questa radio, che sono molteplici e che potete trovare sul palinsesto, che è tutto scritto in bella grafia sul nostro sito wombat.noblogs.org. Vi ricordo la diretta di Slick Chick martedì prossimo, sempre come tutti i martedì intorno alle 20, e se invece non potete proprio a quell'ora e quel giorno, malandrini, vi ricordo le repliche il venerdì alle 23 e il sabato alle 5, e poi vi lascio dopo Nero Orgasmo, vi lascio nelle mani di Fuoco alle Polveri in replica subito, poco dopo, almeno poco dopo di me. E con questo vi saluto e vi lascio appunto a Nero Orgasmo con Nello Specchio, tratto dall'LP Nero Orgasmo del 1993. Boh, mica c'è davvero bisogno che dica altro. Io direi che le parole di questa canzone bastano già e avanzano, ecco. Quindi a martedì prossimo, ciao ciao.